ciu. Ciu. Beh, la carina. C'è un po' di vento, c'è. Ah, qua non ce n'è. Anche per la regione. Ma qui già c'è però. C'è un po' di di minestrone, c'è. Ah, no, non si fa giù qua. Si stanno volando, c'è un po' di minestrone. Adesso vediamo se piove. C'è ci domani. Oppure qualche altra cosa. E se no, ministro dell'Intesa, e c'è grave da Sarvizza. Allora. Ah. Siamo a posto, siamo. Cosa vita, eh? Oggi 17 gradi. Ci abbiamo. E cosa stai facendo, Antonio? Capita niente adesso. Oggi sta piovendo, questo temporale è oggi, c'è questo. Noi meno male siamo fortunati, c'è un po' appena di nuvolosità, però niente acqua, e così che sta piovendo lo stesso. E io domani ci riuscirò a lezione del mattino. Vabbè sì, devi fare qualche esame medico. L'esame del sangue e delle urine devo fare, perché c'ho dopodomani il 3 c'ho la visita diabetologica. E quindi devi andare alle 6 del mattino, ragazzina. Ah, è vero, sì, Alina me lo fai. Deve essere lì per forza e poi fatti l'esame alle 8 e mezzo alle 9. Cocco. No, alla pedoce vado a fare i prelievi e poi me lo ritiro via internet e il 3 vado a fare la visita. La congregazione degli artieri. Ah, ho capito, pensavo che dovevi fare invece a Lina. Perché di solito a Lina si andava alle 6 del mattino per prendere il biglietto. Oh, yeah. Invece... Scusate, dai, di mattina, mamma mia. Purtroppo devo fare così e devo essere tra i primi 10, perché loro aprono alle 7, aprono dopo il 10, fanno pagare tutto a pagamento. Cazzo, ah, di cosa? Dopo il 10, ma questo è tutto a pagamento. Allora ti voglio vedere facendo una fila, ragazzina, che ce ne sono da l'una del mattino di alle 4. Prendo il numero, sembra di essere fuori, come se facciamo una volta a Roma, a Milano, cose del genere per fare gli esami. E perché deve essere la regione non li sta pagando, allora quelli che hanno l'esenzione lì ci sono, ne fanno. Gli altri tutti a pagamento. Chi me l'ha fregato una data, tu la luna è a pagare. Anche col ticket, cioè senza il ticket paghi lo stesso. Sì, paghi lo stesso. L'altra volta era dopo 5. Ah, guarda, sono una cosa assurda, sto diventando, guarda. Per carità, guarda. Come fatti riguardo in Croazia? Gira, me lo liti. Come fanno con i dentieri? Vai lì in hotel, è spesato di tutto, ti fai l'esame e poi torni in Italia. No, già si inconca. E poi devo il giorno 3 devo andare dove abitavi tu prima, li hanno spostati per fare la dove lavorava mamma tuo. Ho capito, per fare la domanda. Cerco di andare anch'io, ma non adesso, se ne parla dopo giugno, perché adesso in questo momento ho dovuto bloccare tutto perché c'era questione di maggio, capito, se no me la sarei fatto. E c'è questo questa merda di cosa, speriamo che toccano questo reddito di cittadinanza, mettano l'altro, almeno siamo più tranquilli. Questa mattina hanno fregato 40 euro, d'ora in poi in contanti solo 100 euro. E per che cosa? Per ritirare il coso, il primo. Stamattina 100 euro solo, hai capito? 40 non me ne dà, dice 100 sono più di 40, me l'ho scritto. hai capito? Quindi prima ritiravo 140, adesso solo 100 in contanti. Ma di cosa però? Della cartina. Della cantina. La carta, la carta. L'uno di solito si ritira in contanti, no? Già lo sai anche tu. Ma io non ti sto capendo. Se stai parlando del reddito di cittadinanza sono 100 che te ne danno in contanti. No, me ne davano 140 prima. A me, ognuno mi dava 140 euro per esattezza. Adesso da oggi in poi 100. Mi ha scritto 100 sono più di 40. Perché gli avevo scritto 140, no, 100 sono più di 40. Tutti domani. Già ho capito, già. Telefonami. Vabbè, cosa vuoi fare? Non telefono, non faccio nulla. Poi, lascia perdere, mi fa poco, guarda, abbiamo altri 18 mesi natali e poi abbiamo finito di soffrire la vendita. C'è il reddito di base, sono già arrivati all'80%, quindi manca il 20% ancora e abbiamo finito di soffrire tutti. Almeno ci danno i soldi contanti, ci danno la carta, poi possiamo ritirare tranquillamente senza restrizioni di niente, non ci vuole né foglio ISE, non ci vuole nulla. E tutta quella merda che ci hanno chiesto, ti puoi comprare la macchina, ti puoi comprare la moto, ti puoi comprare le sigarette, quello che vuoi ti puoi comprare. E vabbè, telefonami Antonello, ti telefono io. E vabbè, già ti telefono io, al limite là non c'è problema per quello. Purtroppo è così, dobbiamo accontentarci di quello, la fregatura che lo Stato ci dà. Già l'avevo detto, Draghi, che diminuiva tutto, ma non pensavo che l'avesse fatto adesso. Fra poco diminuiranno anche le pensioni, se secondo me tu vedrai. Spero solo che se riesca a fare a giugno la domanda di aggravamento mi dà la pensione e se la tengo anche in culo il reddito e quel cazzo che l'hai inventato. Cavagava, cavagava. Lui. Qua sogno. E anche io sogno qua. Stavo guardando quei video famosi con le camionette della macchina, cazzo, che c'erano con le grifini, c'erano due vetti, cazzo, pensa che gira già mi riempie la casa di candelette. Non ho capito, no. Mi stavo guardando il video, in pratica, che si usano le candele della macchina per avere la 220, bastano due candele. Allora, gira, mi riempie la casa di candele di macchina, le metto nel soffitto e così c'è la luce gratis. Funziona a 12 volt, quelle candelette diesel, stai dicendo. Basta un magnete, ci vuole un magnete in mezzo e c'è la corrente. Non è 12, 2,20 Come 2,20? Io so che funzionano a 12. No, 2,20, 2,20. Addirittura, vabbè, quello è un discorso diverso. Basta usare delle casse che c'hai, che non usi, le colleghi una vicino all'altra e c'è la luce lo stesso. Quindi figurati. Poi per avere il gas basta fare una miscela di acqua e non mi ricordo cosa diavolo è, sembra la c'ha fiamme, sembra. Non va bene in tempo di guerra. Sì, tra un po' qui già siamo in guerra, se non stiamo attenti. Mi sa che mi preparo un po' di quella roba lì, me la metto da parte. E mi faccio il lancio a fiamme, capito? Almeno mi diverto a mettere fuoco ai carri armati. Sì, un po' di benzina. E così l'incendieggio. L'entrano in pulla. La accende per tirare lampinnato. No, se guardi bene il video non c'è bisogno della benzina. Basta lo cavolfiore, roba del genere, ci mettono non mi ricordo che cosa e poi un po' di acqua, una cannetta e ti fa davanti a fiamme, ti fa quasi 2,5 metri di fiamma, mi fa. Cosa vedi? E dove le hai viste queste cose? Su YouTube? Su YouTube le ho viste, anzi adesso è un periodo che è tutto pieno di questa roba qua, tutto autocostruire il, per la luce, per avere il gas in casa. E non è più facile, telefono a bombolina e mi faccio portare una bomba. Anche, mi metto fuoco alla casa, beh, ti conviene fare così, a un certo punto. O sai che voglio fuoco alla casa. Ecco. Cazzo, ma tutte se le inventano. No, mi piace, l'unico video mi piacciono, beh, quelli fatti, come ti posso dire, in Asia, che non c'è niente proprio, che basta fare delle modifiche alla bicicletta e cammini con l'attrattore, col coso, di tutto c'è. Basta una batteria di 12 volt piazzata sopra, un motorino e ti fa 50 km all'ora, ti fa. Luisanca. Mi guardati il video, uno per uno, e c'è la video e c'è. Di tutte se ne inventano. E poi bisogna vedere se è vero. No, la verità per la questione del coso l'ho visto, cioè è vero, sì. La verità. Poi bisogna vedere se funziona veramente oppure no. Ma prendo il video, a vedere se cammina. Mi ho messo WhatsApp nel computer, Antonè. Cazzo, si vede benissimo. Puoi fare telefonate, videochiamate, tutto. Io WhatsApp non ci sono mai riuscito a mettere, insomma, nel corso del computer, la verità. Allora si usava solamente, come ti posso dire, l'altro, dovevi pagare per poter telefonare, fare videochiamate, eccetera, eccetera. Non sapevo se potevo usare WhatsApp adesso. E vai su Google e ti scarichi WhatsApp per Windows, Desktop si chiama. Se lo scarichi e funziona, non devi usare manco il telefono, c'è l'icona di WhatsApp, schiacci lì e si connette da solo. Vabbè, ma non sto pensando al computer, no, l'ho buttato a casa. Mentre l'armadio, la riga non lo uso più. Prima lo usavo gratis, se lo sai, adesso ormai le cose sono cambiate, quello di fronte a casa mia non ci posso più entrare, nell'hotel ci hanno messo il codice e quindi è un casino. Se no sei. Guarda, se fossi stato lavorando lì di fronte a casa mia, avrei preso il codice e sarei entrato lì a usare il computer gratis. Com'è? E non ci sarà qualche altra rete, solo quella c'è lì. Ce ne sono due, una giù, una su. Una senza codice dove c'è l'ingresso, l'altro è nei piani alti, c'è per forza il codice per poter utilizzarlo nelle cose, nelle stanze. Mi prendo la posta. Io avevo 5-6 segnali diversi qua a me. Altri tutti aperti, c'era rimasto la scelta, adesso invece solo due. Hai capito? Prima guadagnava un sacco di soldi, guadagnava dal coso. Adesso invece WiFi non lo sta più usando, perché ci va poca gente, hai capito? Prima cassavo un sacco di là, poi c'è stato il lockdown, dopo il lockdown adesso la malzata, quindi finché non io mentre lavoro a quello là mi sa che cappa poco con questi videogiochi, Sopra sono affittato, grazie a Dio me lo guadagno da quello. Infatti, è un casino. Prima la birra, era sempre aperto, io usavo la direttiva, la puntavo lì e mi guardavo tutti i filmati gratis, tutto guardavo. Non c'era una cosa che non mi guardavo sul computer. Poi adesso vaffanculo, ormai anche lui si è imbizzarrito. Come a che cosa? L'hotel. La sotto ha fatto un se sei sotto il segnale gratis ce l'hai, se sei sotto niente, poi anche la Kuwait la se senti qualcosa, prima era aperta anche la Kuwait, non ci voleva niente, il segnale, cioè non, nel codice c'era niente, adesso invece ci vuole lì, il codice cliente ci vuole, nel wifi, free. Io ho capito. Purtroppo è così, questo qua. Oh, c'è gente che è codice o non codice, entra lo stesso. Sì, lo so, basta metterci come si chiama per craccare, già lo credo. E tu fatti hacker, gliela cracchi. Poi non me la frega un cazzo che vai del computer, lo sai. Ce l'ho come se non ce l'avessi, per quello che mi serve, la tengo a fare. Anche Giovanna ce l'ha, e cosa fa? C'ha il computer ma la stampata non la sa usare, quindi è inutile che lo usa per mandare di tutto. Quindi a un certo punto anche lei ce l'ha staccato. Conviene, guarda, andare direttamente lì all'Inps e si fa tutto. Tra l'altro se vai a scrivere magari sbagli una cosa e sei fregato, hai capito? Ebbecla. Cosa cracchi, tu cosa cracchi, sei già craccato. Per il Vella, amico di Natalino. Allora, beh, una cosa ho fatto, beh, come per il Vella. È stato lei che ho sistemato apposta. Adesso funziona benissimo. Ah, fa il culo, il trimmer era. Ho cambiato il trimmer. Avevo messo un trimmer di quelli recuperati da un circuito stampato, non di un baracchino, di un trasformatore di un computer. Come l'ho staccato ci ho messo il nuovo, al primo colpo ha funzionato, io sono stato quasi un mezzo scendo in testa. Come l'ho agganciato, trac, adesso funziona bene, meno male. Me lo sono tranquillo, mi ho chiuso l'apparecchio e va a far cuffia. Ascoltami, ma il problema dello smitter sta dicendo, perché c'era anche il mio. Abbassare abbassa, al massimo non va più di 9, il segnale arrivano, quindi massimo 9. Il trimmer deve cambiare, il trimmer c'è scritto 103 sopra, gli cambi quello e tu sei a posto. 103, il trimmer 103, ma cos'è una resistenza variabile? È un senza variabile, sì, bravo. C'è scritto 103, c'è scritto. E sopra, c'è scritto in nero. Mi cambi quella, gli metti un'altra e sei a posto. Ti mando la foto, ti mando e sai qual è. Così me la sai quale toccare. Sotto lo stampato c'è scritto un'altra cosa, ma comunque il 103. A fianco a quello del CV doppio e me, c'è poco da sbagliare, sono un ultimo e uno attaccato all'altro. Se mando la foto, ma lo faccio vedere, il mio è perfetto. Perfetto in tutto, nuovo, internamente, esternamente, tutto. L'unico problema che ha è che lo smitter non sale. Non va più di quello, capito? Rimane sempre così. Segnali bassi arrivano massimo 5-7. Gli altri, quelli tu ad esempio, Roberto, Carlo, ne arrivate 9. Più di quello non sale. Lo stesso che facevo c'avevo io, non quello che ho avuto, stavo dicendo quello delle. A fianco a quello lì c'è quello della SSB, hai capito? Quindi è quello il difetto. Cambi quello, se non li sposti per la pelle di quel CVC volatile, gli fai un giretto a destra, a sinistra e poi gli fai la tarattura. Aspetti un pochettino e gli fai di nuovo la tarattura. Quello che mi ha falsato a me, sono uscito di testa, a parte c'era quelle due cose che non è sono accorto dopo neanche un mese, c'avevo da parecchio, dopo c'avevo con la resistenza bruciata, l'ho cambiata, l'ho messa uguale e poi il condensatore, quello era a posto, però tutti quanti hanno lo stesso problema già, questi Saturn, ecco. tutti quel trimmeri che lo segna bene, cambiaglielo e vedere se è a posto. Io va bene, 103 vicino a quello dove c'è, se mi serve la sigla giusta. No, beh, io l'ho preso così e me l'ha detto Danilo che c'aveva questo problema dello Smith, non me l'ha fottuto dello Smith, però la radio è perfetta, funziona una meraviglia, c'è solo questo problema dello Smith e basta, però me l'aveva detto, anche me l'ha dato così, non capite. Se ti capita, mandami il numero esatto, il numero della resistenza esatta dove si trova, capito? In modo che ti do uno sguardo, insomma, se è una cosa che posso fare, altrimenti lascio stare così. Catalina. Oh, yeah. Ma vero che sei belivella, o come sei? Ti pure duro, sai? Sì, io sono belivella, tu sei un coma. Senti qua, Antonio, cosa mi ha detto? L'ho sentito, è un manico sessuale, l'ho capito, è un manico. Poi c'è quell'altro coma lì, Luca Pugioni, è un coma, quello sì che è un coma. E a mano ti vuoi rispondere io, che non ve. Ehi, è attorno stasera, stasera è attorno alle 8, capito? Ritorna stasera, glielo dico che Cuocomane, Luca Pugioni. Cuocomane è interista a Cuocomane. E oltre ad essere Cuocomane è anche interista. Allora, è Cuocomane. È un interista a Cuocomane, Luca Pugioni. Sto guardando la TV, me lo rendo un sonno, gli uffici vanno a fare un po' la radio. Se no, mi trombo. Continuate, dai, che sono qua. Faccio qualche cosetta a vedere. Prendi Antone. Aspetta che ti sto parlando con la Ceccio, così te lo faccio vedere. Claudio. Llegaste, ¿quién está por aquí? Buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo está? Pues ya tú, estoy horizontal por acá, pero buenos días, papá. Espero que la cosa esté buena, hermanito. Sí, estoy horizontal, papá. Estoy ya por acá acostadito. Dale, papá, lindo día. Aquí es. Chi è? Oi. Ehi, qua sogno, oia. E mi ha mandato dell'acqua il coso a Claudio. No, non c'è bisogno, se ci arriva da solo. C'è lo schema a blu. C'è poco da sbagliare. Allora me l'ha mandato bei gialli. Schema blocchi, quello che sto dicendo io risulta, adesso mi pongo di vicino, vuole uno giusto, rimane sotto il trimmer della modulazione in AM, si è capito? Quindi in pratica rimane sotto al VM14, proprio sotto, AM, FM, splitter, VR1 c'è scritto, a fianco c'è il VR2, quello della SSB e CW, lo Smith, qui c'è poco da sbagliare, c'è lo schema blocchi, è apposta. C'è anche l'LC, lo sai, della banda laterale, la dritta, ed è il VR12. E forse non ti ha sentito che si era spostato, boh. Cava, va bene, comunque già ce l'ho qua. Anche perché io ho il coso di Gianni, ce l'ho sul telefono. infatti l'ho mandato da un telefono all'altro e poi mandato a lui, solo che adesso non mi ricordo il numero su WhatsApp, no? Qual è? Devo cercare di tutti e poi mandare lo schema blocchi, perché è stato un eco, sembra facile, ma con lo schema blocchi è più facile che difficile, perché naturalmente ci mancano le tensioni, però se è come giostrate, capito? C'è scritto oscillatori, AM, eccetera, eccetera, trasmettitori, cioè, c'è il timbrino per centrarlo in AM, in modo che sia centrato perfetto, che non si muova, quello va fatto con la col cacciapitino induttivo e col frequenzimetro esterno. Gava gava. Ma stai uscendo? Chi è dunque sia? Non stai uscendo? Nulla. Misma. Fosse stato, guarda, così lo schema del ZX-40 sarebbe stata una cazzata, cioè, a fargli le modifiche del microfono. Adesso ci sei. Abbiamo telefono. Via, ciao. Mi hai sentito? Scusa, no, c'è la roba accesa, no, non ho capito, cos'è tanto bene? Ho detto solo tu mi hai sentito, adesso ti sento di radio. E perché prima non mi sentivi? Ah no, non eri tu, no, c'era uno più basso di te, la verità. 9.10 era, non usciva di radio, tu già sei 9.30 qua. Sto usando stato un eco, quindi ormai mi devo, come posso dire, abituare allo smitter. Ma infatti mi ha fatto spaventare, per il cavolo è successo, cazzo, non mi senti più in radio, ti sembra attaccarti, il segnale c'è, cioè, comunque, sta andando tutto qua, sembra tutto a posto. Sì, sei l'unico 9.30 che arriva qua, quindi figurati, adesso funziona, è stato un eco, ma dicevo tutti i segnali 4, 7, non di più, il massimo arriva a B7 di tu, adesso ho sistemato tutto e a posto. E come è successo? Lo smith qualcosa che non funzionava o la radio? Oh, il trimmer era, il trimmer che c'hanno tutti questi Saturn Echo, c'hanno quelle problema del trimmer, dello smith, hai capito? A un certo punto, quando è sempre nella stessa, che passano anni, è sempre lì bloccato, difetta, capito? E quindi bisogna cambiarglielo, bisogna metterglielo nuovo e poi rifargli di nuovo la taratura. Io mi sono messo la due antenne, cosa dovevo fare? A un certo punto ho messo la canola a pesca a destra e la mantova dall'altra parte. E quindi mi sono fatto la taratura così. Era l'unico modo, cosa dovevo fare? Anche perché con Saturn Echo viene male mia. Aspettare che parli una persona per poterla centrare. Quindi allora mi sono messo la portante da una parte e l'altra baracchino dall'altra e mi sono centrato. Ma cos'è questo rumore che sento qua sotto? Radio accesa c'hai? No, il televisore c'è acceso. Tutti i dati cose sono tutti spenti. A parte che c'è una finestra aperta, ma c'è il televisore, vabbè, in camera da letto. Ma cosa c'è? L'eco, una specie di eco si sente sotto. L'eco, c'ho l'eco. Adesso ho tolto l'eco, guarda un po'. Tolgo del tutto. Tolto, guarda un po', va bene. È strana la modulazione, sembra che sia in una camera. Non parlare, manda solo la portante. No, sembra sia tutto a posto, no, sembrava che ti sentissi due volte, cioè un eco breve, proprio dicevi Roberto, e tagliava un pezzo, tipo che c'era una radio vicino accesa, che se stiamo ascoltando, tipo quando c'è un po' d'ascolta, una cosa così, adesso già va bene comunque. No, è l'eco l'ho modificato io, è stato un eco, l'eco solo originale non esce così, l'ho modificato io, sia in questo sia l'eco nel 4000, mi ho messo quell'effetto lì, tipo... Si chiama effetto chiesa, per esattezza. Effetto cattedrale, che ti dà tipo quando sei una chiesa grande, un ambiente grande. Bravo, sì, l'ho regolato così, sia in un apparecchio sia nell'altro. Sono gli unici apparecchi che ci sono in giro così, modificati come l'ho modificato io. No, la radio già va bene, che microfono sta utilizzando? Il microfono sta aperto. No, va benissimo, sento molto pulito. Tra poco fa c'era quell'effetto strano, ma non si capiva bene, quello che dicevi sembrava sdoppiata, tipo quando sei col cellulare e senti la tua voce due volte, così adesso già va bene, si sente bene. Dimmi un po', ma c'è qualche donato, solo sì. Chi c'è? Io ci sono. E bene, appari. E bello me. Ho sentito ieri, quando è che mi ha chiamato Salvatore, l'altro giorno siamo stati un'ora al telefono e poi stamattina, che sono a cosa, devo dargli la risposta, che mio fratello sta prendendo un camper per un amico suo che gli interessava e basta. Saluta a tutti, in particolare a Natalino, saluta a Natalino, Claudio e tutti quanti. Dice quanto mi manca la radio. Sì, è un grido, poverino. Che poi di lì a rasurami, anche se c'è la famiglia e tutto quanto, le amicizie che aveva qua, per dire la sera lui qua si divertiva, attaccavamo la radio, ci facevamo due o tre chiacchierate tutti insieme, ma vai a rasura, cioè di diversivi cosa va? Non è più un ragazzo, non è che se ne può andare con gli amici la sera a ballare, per cui sarà una bella noia, perché lavora tutto il giorno, poi la sera è stanco, dice non mi manca un bella radio, mi ha detto. E poi lì è un popolo freddo, sono diversi da noi. Sì, infatti è vero, lo stai dicendo quello, sono molto riservati. Vai Antonio. Allora, lì già sa bene, c'è fresco, capito, d'inverno, d'estate, si può mettere tranquillamente in maglietta corta, quando fa fare la pipì ti si congela in mano. Dici che coso, i riscaldamenti a settembre li hanno accesi quest'anno. Io ho grido. Lì c'è freddo, in Austria. Ma poi lui è nelle montagne, in alto, nelle valli, dice, è un freddo, dice. Lui dice arriva anche a meno 20, meno 25, e la notte la temperatura. Sì, non è come qua, no. In chi vi piace di bici da un freddo? Lì è come in Germania. Lui è in mezzo alle montagne, lì. Anzi, già era un freddo, lo mangiano, i bici. Ci hanno detto che a settembre quando si alzava c'erano 5 gradi e la mattina quando noi eravamo ancora al mare, ci sono 5 gradi la mattina quando mi alzo. Io già me l'aveva detto. Vediamo se c'è qualche d'un altro qua. Tutto a posto Natalia dalle tue parti, perché con Natalia lo siamo vicini, perché da qualche giorno non accendevo questo. Come va? Modulazione, segnali, tutto a posto? Yes sir, tutto ok, però c'era uno che voleva entrare forse. Facciamo entrare, avanti che vuole entrare su 10. Sera, lavoratori, auguri. Ciao caro, quando sento lavoratori mi ricordo il film di Alberto Sordi, dei lavoratori. Chissà che l'ha detto, in maniera ironica. Io ho lavorato sino alle 13 oggi, a casa non ci ho trovato nessuno, tutti a Cagliari, a Sant'Efisio, rientrano stasera tardi. Buonasera Natalino, Antonello, Roberto, non so chi ci sia. C'era Mario che dovrebbe essere in ascolto, che stava facendo cosa. Ciao Carlo, ben sentito. Ciao Carlo, salutori, buonasera, ben ascoltito. Buonasera a todos, oltre voi tre c'è qualcun altro? Vai Antone. Boh, non ho sentito nessun altro, la verità. Quindi siamo soli, soletti. E basta. Oggi è 1° maggio, la festa dei lavoratori del Balle. A quest'ora erano tutti, 10 anni fa erano tutti chiusi i negozi, tutto riservato, quest'anno invece lavorano tutti, ogni lavoro dello Stato. Già lo credo, oggi c'erano i voli tutti pieni, la gente tutti andando, tornando, mamma mia, va bene che giusto così dopo 2 anni di pandemia, piano piano, speriamo si riprendano un po' tutte le attività, eccetera, se no è un macello, capito? C'era, io sono passato stamattina ai giardini che c'è una manifestazione che fanno tutti gli anni per il 1° maggio, c'è concerto, ma c'è la gente che c'è, ed era stamattina, dice, in realtà c'è la mia figlia di svelare un mondo. Credo, poi oggi tutti senza mascherina. mattina, liberi tutti, anche in aeroporto, passeggeri, ma da oggi non si mette più, oggi non si chiede più il Green Pass, quindi la fila è più snella, capito, perché ci sono meno rallentamenti per il controllo del Green Pass, però devi stare, ma qua siamo in un posto chiuso, ho detto ci sono 500 persone, ho detto mettetevi la mascherina, oh, la gente non ne vuole più sentire. Ora, ma dentro l'aereo ci vuole la mascherina all'interno dell'aereo? Signore, in tutti i mezzi pubblici, treni, aerei, navi, taxi, autobus, in tutti i mezzi è obbligatoria, la FFP2, poi fuori è raccomandata, però non è che sia chiara, perché la raccomandazione non è un obbligo, capito, per cui la gente preferisce non metterla. Ma che microfono sta utilizzando, Carlo? Ti sento strano. È sempre il solito, Robè. Ma ti stai aiutando con qualcosa? Sì, ma poca roba. 20, adesso abbasso un pochettino, dai. Guarda adesso se va meglio. No, il segnale si è abbassato, ma è peggiorata la modulazione. Ti sento un po' citofonica, non ti ascolto, hai cambiato rispetto al solito, forse la modulazione, il microfono, qualcosa. Guarda, adesso sto uscendo liscio, liscio, liscio, così è liscio, i watt della radio, come li usavo sempre. No, non quello, il segnale è quando è riattaccato 960, se no sei 950. Fallo la radio, la sento un po', come definirla, un pochettino ricca troppo di medi e di acuti, un po' citofonica. Forse sarà che sono un po' rauco, come ho preso freddo, capito, e ho un po' di raucedine, e magari per quello, perché il microfono è sempre quello. Ti ascolto sempre 5, la radio chiarissima, niente di, però prima era forse l'impressione mia un po' migliore, la sentivo. Chiedo conferma loro, voi differenza notate rispetto al solito? Io lo sento bene, non c'è problema. Ah, io sto prendendo un Tanner F3. No, a me non mi serve, ne ho un paio, anzi tre ne ho di Tanner, tra cui uno più tre, che lo attacco, vabbè, non l'ho più utilizzato, il patch, il stazione basso, e poi ne ho altri due, nemmeno mi ricordo, due o tre ne ho. Ne ho altri, i microfoni sono tutto a posto, perché me ne ha dato anche un altro Claudio. C'ho un MC50 e un MC80, anzi me ne ha dato due Claudio per esattezza, il 50 che è questo, e poi l'85 che l'ho messo col TS2 mica. E perché mi devo prendere un MC60, capito? Allora mi prendo il Tanner P3, che ce l'ho dentro una scatola. Quello grigio c'ho io, quello che c'è scritto Tanner P3 in inglese. No, io ho quello nero, Tanner P3 Plus. MC60 ne ho due, però sono tutti utilizzati sulle radio io. Sono tutti i cable, due MC60, un MC85 e un MC50. Ho preso quello che era di Fabrizio, che ce l'aveva Riccardino, però mancano i tastini, è nuovo, bello, quello che ha entrato il fulmine, che Fabrizio gli ha ricostruito il circuito. Cioè, mancano i tastini dell'up down e del lock, però funzionano perfettamente. Erano esplosi quando è scoppiato il microfono, ma me li faccio fare, c'è il mio nipote che ci ha preso la stampante 3D. Devo dare le misure e me lo fa uguale. Ok, poi vi faccio una domanda, così non monopolizzo. Avanti, a chi tocca, Antonello. Ehi, dimmi tutto, che domanda? Ah, ma devi fare la loro domanda, non mica a me. Sì, invece me. Lui sta vedendo il Tanner, invece io sto dando due apparecchi in uno, per un 680, quindi se vi vale. Sta volando il Stato Meco 150 euro che ha regalato a quel pezzo lì, quindi a un certo punto tra quello e il Connex 4000 mi va bene un 680 e ci stanno anche guadagnando, poi non lo so. Scusate un attimino il telefono, scusate. Lo stesso, ho preso un MB+4 senza spinotto, nuovo, me l'aveva venduto l'amico di Porto Torres, non mi ricordo come si chiama, te lo dico subito, che Eugenio, e l'avevo preso in officina di Roberto, ci eravamo dati appuntamento, però era nuovo ma senza lo spinotto, per cui mi sono procurato lo spinotto a 6 poli, ho fatto i collegamenti giusti su questa radio, funziona bene come microfono normale, ma non riesce a prendere, già lo sai Natalie com'è qua, questa radio è un po' complicatina, capito, troppo moderna e difficile da regolare. Ho provato ad aprirla, non ho trovato, non ho individuato, quindi per non rischiare di rompere tutto ho richiuso tutto e lascio tutto così. Come mai non hai trovato, cioè è strano perché il 24 io l'ho attaccato in quell'apparecchio che ti ho dato a te e c'è una bomba, e se tu lo provi adesso te ne accorgerai tu stesso, è strano che non c'hai, cioè quell'apparecchio là lo conosco io, c'è l'LC, non è che non ci sia in quello che mi hai fatto vedere in quella fotografia, se è quello è aperto e magari o è nascosto, capito, perché sicuramente c'è una doppia scheda e non so, ho detto dove mettere bene le mani, quindi ho detto prima di fare danno l'ho richiuso, poi eventualmente poi se trovo qualche persona che lo sa fare me lo faccio fare da qualcuno, ma io non mi fido. Ma quello è quello che mi ha dato a me in fotografia con l'apparecchio che c'ha le memorie, quello che hai fatto la foto. Sì, l'Albrecht 5890, capito? E questo funziona sia con diciamo le frequenze canalizzate con i numeri oppure solo frequenze e gli puoi aprire tutta quanta la banda, capito? E portare su un po' anche i watt. Sono rientrato? Ok, stavo uscendo a metà comunque. No, quello non ce l'ho io, quell'apparecchio in fotografia, mi ha mandato l'altro. Era un omologato che mi ha mandato, quello Albert non lo conosco. Però l'altro lo conosco, a voglia se lo conosco. Avanti. Metto, sto uscendo male, Antonio, a metà, cosa hai detto? Quello più si sta a metà, non sono io. Sì, ma adesso sto uscendo bene. Adesso sì. Forse ho schiacciato troppo velocemente. No, ho chiamato, siccome ho letto un articolo adesso sul giornale online, che è successo questi col parapendione, è caduto all'Argentiera, mi sono preoccupato, ho chiamato a Sergio, il padre di Riccardino, meno male che non è successo niente, mi ha detto due turisti tedeschi, lei è caduta e si è sbattuta una roccia e si è spaccato la gamba, il ginocchio, l'altro si è sbattuto un albero, un principiante, nel senso non aveva un'esperienza della zona, infatti ha detto cavolo, speriamo che non sia il padre di Riccardino. Mi ha detto no, tutto a posto, mi sto rientrando adesso. Ok, questa è l'informazione che vi volevo chiedere, ma ho chiamato direttamente per cui tutto a posto. Ok, Natalia, date il mic. Guarda che può essere anche colpa del microfono che non amplifica su quell'apparecchio. Capito, Carlo? Domani se ho tempo che sono a casa di riposo lo provo ad aprire il microfono. Ma se non sai la modifica per quel microfono non è che gli piedi. Ma che radio stai utilizzando? Sempre la solita, Carlo? È sempre la solita. Con lo stesso solito microfono? Sì, esatto, solo sempre quella. Io forse adesso magari non ho l'orecchio abituato, però ti sento diverso dal solito. Ma tu avevi anche un MB più 5 utilizzato per un periodo, non sbaglio? MB più 4, infatti stavamo parlando di quello, che ho fatto i giusti collegamenti perché qua ci sono 6 pin, no, nel microfono, e funziona bene come microfono, ma non riesco a farlo andare come microfono preamplificato, capito? Quindi stavamo parlando di quello. Natalino mi dice che forse si può modificare il microfono direttamente anziché toccare la radio. No, non toccare la radio, al limite tocchi il microfono. Ma chi l'aveva fatta quell'operazione? Luca, prova a chiedere a Luca che lui forse ti dice qualcosa. Al limite chiedo Luca quando lo sento per radio se si ricorda o mi dice o se c'ha qualche foto al riguardo, e provo un pochettino con quello a vedere se riesco a migliorare di microfono. Cappa, ok, lasciamo un attimino di bianco, vediamo se entra qualcuno su 10, avanti su 10. Un punto gli devi fare, Carlo, c'è la modifica su YouTube, scrivi modifica MB più 4 su Google e ti esce la fotografia e tutto dello stampato. e dove devi fare la, il ponte, ti dice. Ma perché fare una modifica? Non basta un ponticello, cioè mettere, cioè, tanto sono trasmissione, ricezione e coso, e PTT non è che deve fare molto macello. Beh, no, la modifica per farlo amplificare di più. Ah, amplifica poco, pensavo che non riuscisse ad andare in trasmissione del microfono. No, in trasmissione va anche bene, solo che non amplifica niente. Prova adesso per sentire, per curiosità. Mi devi dare 5 minuti che ce l'ho giù. Io sono curioso di sentirlo. Ma le batterie sperando che siano sempre efficienti. Vai, Antonella. Break. Ehi, ha registrato il break. Poi strano, perché lui c'ha un pulsante qua, è il numero 4, c'è scritto MIC RFG e poi sotto c'è scritto LUC. Quindi questo già si possa regolare. Non lo so, avanti break. Ehi, ok, ciao Tony. Sono entrato per salutarvi. Ciao Roberto. Io già lo so. Natalino, salutoli a tutti, dai. Ti ascolto fino lì a vostro e poi vado a fare quattro passi, vai Roberto. Ciao Giulio, mi hai sentito, sei un po' più basso del solito, comunque 9 più 15, ti ascolto bene. In compagnia mia di Natalino, Antonello e Carlo che si è spostato. Vai Natali per Giulio. Aspetta un attimo, guarda come adesso. 9 più 25, adesso sei tu. Cosa hai detto Roberto? 9 più 25, adesso è il tuo segnale. Ok, va bene. Scappa, c'è anche Natalino, vai Natalino. Ciao Giulietto. Ciao, ciao Natalino, ci sentiamo, dai. Dai, vado a farmi un giretto, ci sentiamo, ciao, ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo alle prossime. E poi nel controllo, ho sentito la voce. È uno la faccia, era. Così, era con Natalino. Cazzo. Comunque l'80, il 50 mi piace il tastino per il PTT, è bello morbido, non è come quello del 60 che c'ha poca corsa, questo c'ha una bella corsa, magari devo aspettare una frazione di secondo prima di parlare, perché ero abituato al 60, lo toccavi appena e usciva subito di modulazione, questo devi spingerlo sino a giù, c'ha una corsa un po' più lunga, però è bello morbido, non stai a romperti le scatole. Ecco, il microfono quello sì, che era già da che tu. Secondo me io questo disco modificato di Alici lo conosco, questo baracchino dovrebbe avere l'Alici agganciato, come si chiama, la trasformatore, quello grande. Tu non tocca a nuda, che veramente ti ho sentito così bene, Antone. Lascia tutto, mettici la plata. No, oh, io sto parlando non di quello mio, lo sai. I miei due apparecchi escono veramente bene e sono gli unici. Il Condes 4000 anche il Saturn Echo. Sto parlando di quello di Carlo. Secondo me trovo delle C e glielo posso anche regolare. Tanto non è che sia senza baracchino Carlo, c'ha il coso, il mio 2009 c'ha a casa, col coso, con l'MB più 4, quindi ha voglia che esce bene, se vuole usare usa quello, non è che sia che rimanga senza baracchino. No, ma già si sente, però la sento troppo nasina la voce, normalmente usciva bello naturale, visto che io lo conosco di persona, sembra una voce citofonica, l'ascoltavo molto meglio, il segnale è a bomba però, la radio sinceramente è sufficiente ma non eccellente. Vai Natalia, che avanti. Questo è Carlo che non sta uscendo di radio probabilmente. Tu sei Carlo, dai due colpi importanti se sei tu. Sì, è Carlo. No, non va, non sta uscendo Carlo. Adesso sta uscendo? Sì, adesso si prova a parlare. 1, 2, 3, prova. Avevo a zero la manopolina. Adesso ti ascolto benissimo, al massimo sei di volume. Adesso l'ho portato a 5. Prova a parlare. 1, 2, 3, prova radio. Come si sente questo? Meglio rispetto al suo originale? Questo è l'MB più 4. Sì, molto meglio, molto molto migliore. Magari sarebbe naturale avere un po' più di bassi, però la modulazione è bella chiara. Puoi salire ancora di livello? Sì, sono a 5, lo posso portare. Adesso lo porto, guarda, lo sto portando a 8. Prova a parlare. 1, 2, 3, prova radio. 1, 2, 3, prova radio. No, 8 è troppo alto, abbassa perché poi ti dà una specie di rientro. Abbassa, mettilo verso sì, dai. Glielo mando. Allora, Mentre inoltre messaggio importante, dice a vedere inoltre. Ma forse ci ho parlato sopra, Natali, cosa ha detto? Aspetta che mando lo schema a coso. Mi do per fare i due ponticelli. Sono due resistenze da mettere in corto. Ciao, prova a parlare, Carlo, mettilo verso sì il livello. Adesso guarda se va meglio, Roberto. Adesso l'ho portato a tra 5 e 6. La parte mia va benissimo. Ebbene, ho detto che non amplifica questo microfono. Da quello che mi risulta adesso, dai segnali che mi stai dando tu, i controlli, sembra che stia amplificando. Io ti ascolto benissimo, perfetto. Non so se poi senti un microfono normale, se senti l'amplificazione o meno, però se prima mi hai detto che regolandolo, abbassandolo, mi senti meglio, vuol dire che qualcosina sta andando bene qua. Sì, la modifica l'ho sentito, non era eccessiva, però si sentiva la differenza da come è sollevato. Ha migliorato, quando l'hai messa sotto era un po' sporca. Adesso va benissimo, ti posso dire, non sarà una bomba da combattimento, ma pensiamo che è una radio normale, non è una radio di quella da combattimento. Va benissimo, a parte mia ti ascolto molto molto meglio di prima. Poi chiediamo anche a lui, ti sto ascoltando con l'altro parlante esterno, un apparato serio, non un baracchino naturalmente. Ok, sì Natali, se me la mandi quella foto della modifica, poi già la guardo. E naturalmente, ripeto, non è una radio di quella combattimento per lunghe distanze, però per città va benissimo. Con il mio più fatto, quello che ti ho dato io, se cambia qualcosa. Questo è l'MB più 4 che ho io, il tuo non lo posso usare perché ha 4 pin su questa radio, invece qua ne ha 6. No, ti ho chiesto, collega il mio 3009, con l'MB più 4 agganciato, e fai la prova un secondo, così vediamo la differenza che c'è da uno all'altro come baracchino. Capito? Tanto gli attacchi di dietro sono diversi, la limitazione è uguale, non cambia nulla. Prova a agganciarglielo. Ho capito, sì, però mi devi dare un attimo, già lo facciamo tra un attimo. Vabbè, fai pure con calma, tranquillo. Non c'è problema. L'amica te l'ho mandato, quelle due c'è l'alimentazione, quelle altre due. Se tu guardi nel tuo microfono non ci sono quei due ponticelli. Prima fanne uno, poi se non ti soddisfa fai anche l'altro. Vedrai che già amplifica il microfono. Ok, tanto farlo sul microfono è sempre meglio che agire sulla radio, capito Natali? Ci provo, dopo lo visualizzo perché avevo il telefono in carica, l'ho lasciato dentro nel salone, capito? Stavo dando un'occhiata ai risultati, ho visto che era al 15% di batteria e quindi l'ho lasciato in carica, dopo già le visualizzo. C'è proprio la fotografia. Comunque il Milan ha vinto, se c'è qualche milanista è rimasto primo. Sì, io non l'ho vista la partita, però ho visto che praticamente ha vinto segnando un gol, però praticamente ha fatto una papera al portiere della Fiorentina. Vabbè, diciamo non proprio papera, gliela piazzata bene, è stato poi bravo il portiere del Milan, ha fatto una bella parata, ha avuto altre occasioni, ma ha meritatamente vinto, ha avuto lì stava schiacciando, certo poi devi stare attento a un errore, a una fesseria, a un pallone perso, erano molto concentrati comunque. Non l'ho vista tutta la partita, però ti posso dire quel pezzo che ho visto nel secondo tempo meritava. Ok, speriamo che perda l'Inter, alla faccia degli interisti, se ce n'è qualcuno, naturalmente vinca sempre il migliore, però io dico sempre la fortuna gira. L'Inter è stato più fortunato del Milan, adesso speriamo che ritorni quella che ha perso il Milan di sfortuna, che ritorni dalla sua parte. Ok, di nuovo a chi tocca, Antonello. Allora bisogna che andiamo da cosa stasera a me. Da Nico, intanto Nico intervista, trova di una cosa del genere di Biabosi, tu non capisci niente. Poi non ho capito, c'era un rigore clamoroso per il Milan su Leao, ma proprio l'ha pigliato in pieno, non l'hanno neanche guardato al VAR, l'hanno fatto vedere le immagini 3-4 volte i cronisti, i telecronisti, e era rigore, proprio chiaro, e non era. Va bene il calcio, che lo sai così, purtroppo c'è chi vince, c'è chi perde, e ci va quello, e che culo se la prende. Vai Natale, eia, più chiara di così gliel'ho mandata. Adesso se la vede, gli fa quei due ponticelli e vedrà che va. Ma dopo anche a me la fai quella modifica, così me la faccio, perché c'ho il microfono originale del MP4, ce l'ha Carlo, quindi così me la faccio uguale io a casa. Tanto ce l'ho stampato, disegnato nello schema che c'è all'interno della scatola, così me lo faccio e no? È più tranquillo. Ok Nathalie, l'ho vista adesso, sembra anche abbastanza semplice, tanto il saldatore è quello a bassa tensione, piccolino, me li faccio prima provo con uno di ponticello, poi vedo come va, eventualmente gli faccio il secondo come mi dici tu. Eia, mica te l'ho mandato Antone. Eia, l'ho sentito infatti. Ok, a me lo mi faccio la modifica quando diventa l'MP4 e così lo approvo. Vabbè, c'è anche un microfono, non è che me ne macchio, grazie a Dio. Questo è Isabella, quello che pompa di più. Rimpiango solo quello rosso, guarda, quello che era attaccato a 80, rimpiango quel microfono di Isabella. Un demone era quel microfono, si sentiva anche il cuore, si sentiva, l'appoggiavi al petto, si sentiva tutto, tutto, tutto, tutto, era l'unico. Mamma mia, come sto? Ehi, dove? Ciao, cra. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao, Claudio, comunque non bello, l'Inter sta vincendo, visto. Così sai qual è? Poi sei il palindo. Certo, sta facendo cosa? Io ho una famiglia grande, non è che sono da solo qua. Qui c'è la gente, sono anche di adesso. Perciò... Ciao Carlo, anche te, Natale, Roberto, Antonello e tu, base compasa. Va bene. Che altri avvirai di Isabella? Mi sembra che ne ho uno io di Isabella da controllare. Ma non mi ricordo se c'è un filo attaccato o qualcosa. Ciao. Sembra che hai perso, te lo regalo io completamente. Isabel Tamate Plus, quello con l'eco, quello con col bip, il doppio bip, guarda, è perfetto. Sai cosa mi manca, cazzo, quando si è fatta con questa alerta, cazzo, vaffanculo a me, guarda. Mi avrei mangiato le ginocchia quel giorno, vaffanculo, quando l'ho lato, cazzo. Ho fatto una gran coglionata, come si dice, sbagli si pagano a volte. Quindi, però, non si torna più indietro. A quello che avevo prestato, cazzo, bruciato, me la. Quello è il problema, capito? È come avere il mal di denti che tu ti fidi una persona, cazzo, e prende e ti incula, solo quello, non per altro. Quel microfono era allucinante, era già funzionava alimentato con l'apparecchio, autobus, era una bomba, era. Vabbè, pazienza, la colpa la mia, e la prossima volta che mi chiedono, me lo pensi cosa del genere, col cazzo si agganciano. No, cosa non si prende, no, non si prende, guarda, io sai quanta roba di persone che mi conoscono. Eppure mai avuto un problema, perché le cose bisogna non toccarle, usarle con moralità, con criterio, con intelligenza, senza toccare nulla. Quella era una bella radio, ancora quella me la sono portata la bocca per dartela veramente. Era una bellissima radio, l'ho usata tantissimi anni, non ti ha mai creato problemi, come tutte quelle che ho sempre dato io, assolutamente, guarda, me ne sono rientrate tre a me, una l'ho venduta, una me la sono tenuta di 140 e l'altra ce l'ho, erano tutte e tre le mie, figurati, sono rientrate nuovamente a me, nello stato in cui le ho date, sempre belle, ordinate e pulite, questa è una, e va bene così. Va bene, dai, è arrivata mia figlia, sono andata a salutarvi. Va bene, noi ci vediamo domani mattina per quella commissione, già pronta.